ballerà. Massimale. 220 euro alla prima iscrizione e altri 91,50 ogni anno. Massimale. Circa il 60% degli oltre 44.000 autori musicali iscritti è in perdita. Massimale. E i sistemi di monitoraggio usati fanno davvero gli interessi anche degli ultimi arrivati? Società italiana d'autori ed editori. Tassa su tassa, vengarà la tassa. Pure il spirito ci paghi la tassa. Si scrive o si canto, ci andare a sopparti. Lo sparte e spartiva, aveva media parte. I diritti delle tue canzoni paghi la CIA. Per conservare i tuoi diritti paghi la CIA. Se vuoi fare una festa paghi la CIA. Buonasera a tutti, Radio Ballarò live da Ballarò, puntata numero 33 come gli anni di Cristo. Siamo ancora in pochini, salutiamo a Master, salutiamo a Ren, salutiamo a tutti quanti. Oggi è una puntata ricca di novità, come avete letto dai messaggi appunto che abbiamo inviato a tutti quanti via Facebook, eccetera, eccetera. Sarà una puntata importante perché ci sarà un estratto di un'intervista che abbiamo registrato per conto appunto del Circolo Arcinzocchè. Ringraziamo a Titti in particolare del Circolo per averci dato questa possibilità. L'intervista è un'intervista pubblica che c'è stata, mi pare, la settimana scorsa, venerdì scorso. Questa intervista pubblica dove abbiamo appunto raccolto la testimonianza di Letizia Battaglia, la famosissima fotoreporter detta appunto la fotoreporter della mafia, nel senso che ha riuscito a raccogliere un sacco di foto, di testimonianze appunto su fotografia della guerra, della mafia che ha macchiato la città dagli anni 70 in poi. Quindi questo breve estratto, che farà parte poi di una collezione che probabilmente uscirà in seguito, ci stiamo organizzando per questo, oggi ascolteremo il primo estratto appunto di questa intervista per la rassegna Palermo che puzza, ideata appunto da Titti De Simone. La seconda intervista sarà appunto stata registrata con il magistrato Antonio Ingroia, quindi anche quella importantissima. Comunque cominciamo subito con la musica, cominciamo con i Mud Skills, musica. I did the E va bene, di nuovo in diretta Radio Ballarò, live da Ballarò. Al microfono Carlo Nix, in regia abbiamo il nostro papà Barbalunga, anche se se l'è tagliato un po'. Facciamo gli auguri davanti a tutti gli amici al papà Simone, sei contento? Insomma. Ringraziamo anche Valerio Cinale, il fotografo di Radio Ballarò. Potete vedere le ultime foto scattate proprio dal nostro amico Valerione per gli ultimi due concerti che ci hanno visto protagonisti al Circolo Arci in Socca, in particolare con il live di Claudio Cataldi. Ringraziamo The Wool Shop Production e Claudio e tutti gli amici della Wool Shop che sono intervenuti, Gian Piero Riggio, Chiro e di Stefano, mi ricordo mai come si chiama l'amico di Claudio. Comunque ci sono le foto sul nostro profilo Facebook, potete andarle a vedere. Ringraziamo sempre il Circolo Arci per l'opportunità. Poi siamo stati pure il giorno dopo, sabato, mi pare sia stato al Tour de Force a Piazza Sant'Anna. Siamo riusciti a fare anche qualche foto agli indicativi, il gruppo allucinante con pezzi dei Filthy Sunday Circus e Iota Tola, questo duo di fantastiche e bravissime ragazze, sempre palermitane. Qualcuno ha detto che questo Tour de Force non è stato un granché, ma a noi invece è piaciuto tanto. E va bene, Radio Ballarò sempre in diretta da Ballarò, alle nostre spalle il sole lentamente se ne va. Adesso continuiamo con un pochettino di musica, Electric Rainbow, musica. Shoes. Who do you love? I'm almost grown. Blue jeans, real green, little 16. Who do you love? I'm almost grown. Sempre e solo in diretta Radio Ballarò Live da Ballarò. Allora, volevo dire semplicemente che tutti quanti possono collaborare con Radio Ballarò inviandoci una mail a radioballarò@hotmail.it. Che cosa ci inviate? Inviateci musica, parolacce, droga? No, la droga no. La droga no, la droga no. Inviateci indirizzi delle vostre sorelle. No, non è vero. Inviateci la vostra musica, che noi la trasmettiamo. Trasmettiamo solo musica senza SIAE. Quindi se siete registrati alla SIAE, purtroppo noi non possiamo trasmettervi, perché non paghiamo nessuna tassa SIAE. Quindi non abbiamo intenzione di farlo, diciamo, in futuro. Quindi iscrivetevi alle Creative Commons. Fatevi una licenza libera Creative Commons, oppure lasciate le vostre canzoni libere fin quando qualcuno non se ne accorga e passatecele, che noi le trasmettiamo in diretta su Radio Ballarò. La nostra mail, dicevo, è radioballarò@hotmail.it. comunque, se volete inviarci anche qualcosa di interessante, come per esempio degli eventi e qualcos'altro, praticamente noi siamo contenti e felici che voi contribuite a creare appunto il palinsesto con tutte le informazioni che diciamo durante la puntata. Per esempio, in queste ore sono ore un pochettino, come si dice, pesanti, perché come sapete appunto è stato chiuso il Micalza. Siamo tutti vicini a Lorenzo Quattrocchi, il titolare, che è stato addirittura condannato dal tribunale appunto per una violazione penale. Comunque ne parleremo più in dettaglio in avanti, perché è veramente una cosa strana che a Palermo non si possa tenere un concerto live con più di due persone. Questi pochi locali che riescono a riempire appunto i propri bar, i propri pub con della gente per ascoltare musica, e che danno comunque qualcosa anche alle band, sono veramente pochissimi, si contano sulla mano, così saranno forse 3-4. Il Micalza era uno di questi, e quest'anno aveva fatto veramente tantissimo per la musica palermitana. Un sacco di band sono andate a suonare al Micalza quest'anno, e chi entrava praticamente non pagava niente e poteva pure gustarsi un'ottima birra. Hanno chiuso il Micalza, e vabbè, c'è qualcosa che non va. Comunque, vicini al Micalza e a tutte le iniziative. Ricordiamo che c'è stata proprio una marcia funebre i giorni scorsi dal Calesa, dove c'è stato un dibattito dove si è mischiata per esempio anche la Confcommercio, a titolo appunto dalla parte dei commercianti, che sono costretti a chiudere perché questo intrattenimento a quanto pare non è tollerato dalla legge. Va bene, continuiamo ad ascoltarci un po' di musica, siccome siamo incazzati neri. Ci ascoltiamo i Psycho Ocean da Catania. Bella musica, bella. To Ashinaji, to now fuck off from me, where to Yesu? Asphyxiate and deformed, we're approaching our perfect inequalities are connecting. How we just fall to pieces. We'll be right back. problemi tecnici, può succedere anche ai migliori. Se ci state ascoltando dal canale alternativo, solo audio, per ora funziona solo questo, speriamo di potervi farvi rivedere le nostre bruttissime facce di culo in diretta, non sappiamo più quanti siete, abbiamo un po' perso i contatti, comunque funziona solo il canale alternativo, quindi Radio Ballarò oggi funzionerà così, almeno i nostri tecnici proveranno a risolvere il problema il prima possibile. E va bene, visto che siamo un po' qui, combattiamo con questo canale malefico, nessuno ti regala niente gratis, è vero, è vero. Va bene, vediamo di leggere qualche notizia in tempo reale qui con voi. Questa è un comunicato che ci è arrivato dall'associazione MID Disabili, quindi tutte le associazioni dei disabili indicano una manifestazione a livello nazionale il giorno 21 giugno del 2010 alle ore 9, dalle ore 9 alle ore 16, contro la manovra del governo che si ricorda dei disabili solo quando deve tagliare la spesa, giustamente, la spesa pubblica, sostegno, scuola, e cerca di togliere assegni di accompagnamento, assegni sociali e pensioni di invalidità che hanno già importi irrisori ma sono di sostegno vitale per i disabili. Niente, appunto, quindi leggiamo questo importantissimo messaggio dell'associazione MIDI Disabili, che insieme alla legge Bavaglio appunto è uno delle grandi cazzate, le grandi stronzate che sta in questo momento facendo quello che si dovrebbe chiamare un governo, ma che in realtà non lo è. Vi ricordiamo che tutto quanto è basato sulla mafia, che lo Stato non esiste e sarebbe l'ora di ribellarsi. Detto questo, continuiamo con la musica e ci ascoltiamo i Fluido. Musica. Ballarò. We'll be right back. Va bene, Radio Ballarò, problemi tecnici. Niente, Radio Ballarò, live da Ballarò, siamo sempre più incazzati, più cerchiamo notizie sul web, più ci viene da vomitare. Oggi avevo mangiato pure bene con le lasagne della mamma. Salutiamo la mamma a casa che pulisce le pentole delle lasagne. Va bene, va bene, va bene, leggiamo un'altra notizia. Vi ricordiamo appunto, vi spieghiamo meglio cosa sono queste interviste che vi faremo ascoltare oggi. Appunto l'estratto dell'intervista al Circo Arcinzocchè di Letizia Battaglia e domenica prossima un breve estratto dell'intervista al famosissimo magistrato Antonio Ingroia, che è stato lì a parlare per un'ora appunto dell'uscita del suo ultimo libro, che è ricco di notizie, informazioni proprio sulle indagini, naturalmente niente di segreto e che già non si sappia in giro, però qualcosa che veramente è forte sentirlo dire, in particolare a un magistrato che è in prima linea. Io proprio a guardarlo, vedendolo così stanco con la barba, ragazzi, sembra proprio Falcone Borsellino, nel senso è quella la strada che prende questa gente, gente che gira appunto, purtroppo non penso che sia contenta di girare con la scorta eccetera eccetera, sono degli eroi. Fortunatamente il magistrato Ingroia ancora non è un angelo come tutti quelli che già sono purtroppo morti per colpa della puttana della mafia. E va bene, va bene. Comunque, questo primo estratto della rassegna Palermo che puzza, ideata da Titti De Simone del Circolo Arcinzocchè, Circolo Arci in via Ximenes, con la quale appunto collaboriamo per una serie di serate come quella di giovedì scorso con Claudio Cataldi. Quindi il primo appuntamento di questa serie di interviste pubbliche intitolate Palermo che puzza, con Gianmauro Costa e Sandra Rizza, che intervistano Letizia Battaglia, appunto giornalista e fotografa che ha raccontato per mezzo secolo con le sue immagini il volto, le ferite, la rabbia e la speranza di Palermo, vita, storia e memoria di questa disgrazia, di questa città disgraziata. È un'immagine scattata oggi nella Palermo del massimo degrado. Zocchè, con questa prima intervista pubblica, comincia un racconto sociale e politico su Palermo, sulle ragioni del suo sfacelo, sulle tracce di una possibile rinascita, con uno sguardo impietoso e femminile sulle ragioni di questo degrado politico e culturale, che è un regalo alla mafia e ai suoi interessi. Questo racconto proseguirà con altre testimonianze oculari del nostro tempo. Come vi dicevo appunto, abbiamo registrato anche l'intervista di Antonio Ingroia. Più avanti a metà puntata ascolteremo l'estratto di Letizia Battaglia. Eravamo contenti di vedere che c'era il nipote che ci ascoltava, mi pare sia il chitarrista della Miera, se non ho capito male, vero Giovanni? C'è Giovanni della Master Music Promotion. Comunque fra breve ascolteremo questa intervista, che parla proprio di una, in particolare di una foto che fa parte delle indagini, famose indagini poi su Andreotti eccetera eccetera. Quello che è successo è storia italiana, ma a quanto pare agli italiani non piace molto la storia. Adesso boom boom back. Thank you. va bene, ragazzi, forse ci siamo. Se volete di nuovo rivedere le nostre facce, manderemo questa canzone e dopo probabilmente dovrebbe rifunzionare il canale audio video. Quindi se sentite io che parlo tre volte contemporaneamente, praticamente dovete staccare il player alternativo con il quale ci state ascoltando adesso. Comunque ve ne accorgerete perché partirà di nuovo il video sul sito. Quindi, come vedete, una delle novità di questo sito è proprio il canale alternativo montato dal nostro grande e tecnico Simone, che è riuscito appunto a trovare queste scamotaggi per problemi come quello che si è verificato oggi. Vi volevamo dire che sono presenti anche dei banner di Banda Radio. Da domani partiranno ufficialmente le trasmissioni di Banda Radio, questa nuova radio, appunto web radio, che parte con un impegno sociale incredibile. Parte dal basso, parte da ragazzi come noi che da tanto tempo si sbattono per veramente tutto ciò che ha a che fare con il popolo, quello che spesso dai governanti è dimenticato, da chi ci governa non ci pensa. Quindi parliamo di tutte quelle persone che combattono per avere una casa, che combattono per avere semplicemente un posto di lavoro. Parliamo anche di noi che stiamo uscendo dalle università e dalle scuole con la preparazione di un macaco. Ma va bene così, stringeremo i denti, siamo più forti, veniamo dalla giungla e infatti adesso ci spariamo un'altra canzone. Il nostro amico Giampiero Riggio, che esce appunto con le pubblicazioni attraverso The Bullshop Production, l'etichetta indipendente palermitana. Ora speriamo di mandarvi il link se la chat funziona, quindi adesso scollegatevi di qua e ci rivediamo nel sito con le nostre belle faccine di culo. Adesso Giampiero Riggio, musica. Ballarà. Va bene, siamo di nuovo in diretta. Funzionano? Funzionano? Ci vedete? Prova, prova, le nostre facce di culo sono... Allora, ha chiamato l'associazione macachi dello zoo di New York. Dice che comunque un macaco è più intelligente di una scimmia del Costa Rica. Cioè, questa puntualizzazione noi la comunichiamo in diretta davanti a voi. Viva i macachi! Viva i macachi! E noi siamo i futuri macachi da zoo. E va bene, va bene. Quindi vi ricordiamo che a breve ascolteremo l'estratto, il piccolo estratto dell'intervista, oltre un'ora di registrazione di su Letizia Battaglia, intervista pubblica al Circolo Arci in Zocche. Zocche che ha visto appunto proprio noi con la Bullshop Production la settimana scorsa. Live Giampiero Cataldi. Bellino, bello concerto, bello, bello. Eravamo in pochini, però voi dove eravate? Vi abbiamo cercato e non vi abbiamo trovato. E va bene, andiamo avanti con la musica. Adesso dovreste pure vederci e sentirci e comunicare con noi tranquillamente. Ci ascoltiamo adesso Silvia Leoni, musica. C'est toi mon amour. Sous la pluie j'ai vu tes lèvres et la lune m'a parlé de toi. Et tes yeux sont gavés sur les arbres de ce bois. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les feuilles parlent de nous. Sous la dernière pluie de l'été. Va bene, va bene. Siamo di nuovo in diretta. Sono riuscito adesso a connettermi in chat. Spero che chiamate qualche amico perché siamo pochi oggi. Fra un po' manderemo l'intervista a Letizia Battaglia. Quindi volevamo che ci fosse un po' di gente per ascoltare questa testimonianza veramente importante. Dovete tutti sentirla. Se dovete, se, perché se amate la vostra città dovete per forza ascoltare. Comunque, comunque, leggiamo insieme qualche altra notizia. Che cosa ci abbiamo qui adesso? Ah, volevo ricordarvi, importantissimo ragazzi, il 19 giugno 2010 è una data che a Palermo resterà per sempre nel ricordo di tutti, perché per la prima volta si fa il Gay Pride, il Gay e Lesbica Pride e Bisessuale Pride, anzi. Praticamente è la prima volta che viene a Palermo, e questo evento che è organizzato appunto tra gli altri dal coordinamento Stop Omofobia di Palermo, che ci ha inviato appunto un comunicato ufficiale che vi leggeremo qualche estratto, appunto perché questo evento è considerato così importante. Innanzitutto perché la struttura del suo soggetto organizzatore, il Comitato Stop Omofobia di Palermo, ha oltre a raccogliere al suo interno tutte le associazioni gay, lesbiche, cittadine, vede stabilmente al fianco una proporzione numericamente molto superiore a partiti, movimenti, collettivi, centri sociali, sindacati, associazioni, eccetera, eccetera. Tutti questi soggetti, pur mantenendo la loro autonomia, hanno scelto di iscrivere una parte significativa del loro percorso dentro il movimento e le battaglie per le lesbiche, gay e bisessuali e transessuali. Quindi questo evento sarà importantissimo e sarà ufficialmente a tutti gli effetti un gay pride nazionale il 19 giugno qui a Palermo. L'evento, che comprenderà appunto al suo interno una serie di iniziative come dei seminari, dei convegni, dei dibattiti pubblici e politici, spettacoli musicali, teatrali, di danza, cinematografici, eccetera, eccetera. Spero che si senta bene, che siate tutti collegati, perché fra un po' ci sarà l'intervista a Letizia Battaglia. Questo breve estratto, che poi uscirà in versione integrale per la rassegna Palermo che puzza, insieme al circolo quindi il circolo Arci Nzocchè, l'ideatore, il promotore di questa iniziativa, a quale appunto siamo stati gentilmente invitati e che ringraziamo ancora una volta, in particolare Titti e Rosi, che si stanno là tutto il giorno. Sono veramente due tostissime donne, allucinante, bravissime, complimenti. Adesso ci ascoltiamo Christophe Marc, giusto? Giusto, musica. Enjoy the show. Va bene. Radio Ballarò live da Ballarò, non scappate. Solo musica libera da SIAE. Che vuol dire? La SIAE mette un monopolio, no? O voi fate gestire la vostra arte dalla SIAE, quindi sarà lei per voi, per conto vostro, a gestire i vostri soldi, oppure vi iscrivete con le Creative Commons in un circuito libero e indipendente dove siete voi che potete scegliere cosa fare della vostra musica, siete soltanto voi e nessuno vi scassa la mente. Avete capito? Avete capito? www.creativecommons.it. c'è anche il sito italiano bellissimo fatto apposta per noi che non parliamo altre lingue. Volevamo dirvi che a breve ascolteremo l'intervista l'intervista dedicata appunto a Letizia Battaglia. Nel frattempo parliamo un po' di eventi, visto che c'è il nipote di Letizia, ci dicevano. Vi ricordiamo che Motorette, Vohin e La Miera saranno live a Litania sabato 12 giugno alle ore 22 a Litania in via del Cels numero 69. Motorette, Vohin, non so come si pronuncia, scusatemi, e i La Miera, che vengono appunto anche loro da una serie di concerti in giro per la città, mi pare proprio ieri sera allo Zazà. The Master Music Promotion organizza eventi a tempesta, grande Giovanni. E più tardi ascolteremo appunto i come si chiamano, i musicisti che parteciperanno il 5 giugno invece all'Arci Bar Colle in via Ammiraglio Gravina numero 56 per un'altra serata metallara importantissima, perché sul palco saranno i Third Eye, Der Geist, come si pronuncia, e Anthem 37. Ascolteremo proprio più avanti un pezzo dei Third Eye e un pezzo degli Anthem 37, metallo fatto in casa, quindi è quello bello antiossidante, come si dice, che non sia ossido, comunque va bene. Andiamo avanti con la playlist perché dico troppe cazzate. Signore e signori, i Cosmosykes. Les émotions. FCC Dua shindaji Upendo wake Mungu Unatutia nguvu Dua shindaji Tunaufuata ufalme wetu Yesu Dua Va bene. Prima di ascoltare l'intervista a Letizia Battaglia, volevamo ricordare un evento che si terrà appunto il venerdì 2 luglio. Questo evento importantissimo perché ne ha parlato proprio Letizia Battaglia durante l'intervista. Piazza Garraffello viene un attimino rivalutata. Praticamente la bellezza e la rovina, poeti al Garraffello. Questo è il nome dell'evento che sarà appunto venerdì 2 luglio. Proprio la Letizia, quando appunto parlava del Garraffello, ha detto che mi pare che sua figlia pure si è mischiata all'interno di questo evento. Comunque, che aveva visto questa piazza totalmente degradata. E visto e considerato che la utilizziamo noi, nel senso, quando dico noi parlo quelli come noi, no? Cioè dovremmo stare un po' più attenti anche noi, ogni volta lì pieno di birre schifose, tutto a terra e sporco. È una piazza bellissima, ci facciamo delle serate paurose, ma teniamola un po' più pulite. Che cazzo, perché poi mi arrabbio e incomincio a dire parolacce e poi Simone mi punge con una freccia da sotto il tavolo. Bando alle ciance, adesso ascoltiamo questo breve estratto, l'intervista di Letizia Battaglia. Volevo leggervi un attimino che cosa ha fatto nella sua vita Letizia Battaglia, perché fin dagli anni 70 collabora per L'Ora. È famosa proprio come, diciamo, tra virgolette, fotografa della mafia, perché è riuscita a scattare un sacco di foto di delitti di mafia. Queste foto appunto sono spesso state riutilizzate come simboli, fortissimi simboli, come per esempio lei parlava di questa foto di questo mafioso morto ammazzato con la camicetta sollevata e con il Cristo tatuato sulla spalla sinistra. Questo è appunto la morte del Cristo, forse. Comunque la mafia è veramente un evento che sconvolge, e riuscire a ritrarre queste appunto queste foto vuol dire che non si è persone normali, sicuramente si ha qualche cosa in più, un senso civico e una voglia di far amare la propria città a tutti quanti, che non tutti oggi ci hanno. Ascoltiamo Letizia Battaglia. Durante il processo Andreotti, quando il senatore si affannava a negare risolutamente di aver mai conosciuto Isetto Risalvo, Letizia trova nel suo archivio una foto scattata appunto all'Hotel Zagarella, dove comparivano vicini Andreotti e Nino Salvo. Questa foto ovviamente finisce agli atti del processo e costituisce la prova, Panorama la mette in prima pagina, me lo ricordo perché io ci lavoravo, quando non era orrendo come adesso, era un vero giornale, e diventa la prova, questa foto, la prova documentale della effettiva conoscenza o quantomeno di un incontro avvenuto sicuramente tra Andreotti e Nino Salvo. Ce la racconti questa storia, la storia di questa foto, se te la ricordi? Sì, un giorno di non so quale anno dei 90, bussano alla porta all'improvviso. Io abitavo nel centro storico a Piazza Meschita e davanti mi vedo sei giovani alti, assassini, non lo so. Dice, siamo della polizia. Dico, prego, accomodatevi. Dice, lei dovrebbe farci vedere il suo archivio fotografico. Dico, ma con molto piacere. Loro mi rispondono, piacere o non piacere, abbiamo qua il mandato, proprio così, una cosa del genere. Dopodiché dura pure io, dico, va bene, qui ci sono i negativi, qui ci sono le schede, io esco. Dice, no, lei non può lasciarci soli. No, io vi lascio soli. Li ho lasciati soli, loro erano forse le 10 del mattino, sino alle 6 del pomeriggio sono stati nella stanzetta dove c'erano i negativi, le schede. Anzi, loro in realtà mi chiesero, dice, dove troviamo i negativi della Democrazia Cristiana e dei socialisti? E io gli dissi dove li potevano trovare. Alle 6, io ero già ritornata da tempo, comunque alle 6 dice, noi abbiamo finito. mi consegnano un verbale, mi dice: noi stiamo portando via tutti questi negativi, però lei li riavrà. Dico: almeno vi sono stata utile, non avevo... Dice: sì, e se ne vanno. Dopo, io non so niente cosa hanno in realtà tra le cose, cosa ci fosse. Non sapevo neanche che cercavano Andreotti a Palermo, non lo sapevo. Dopo qualche mese mi chiama Attilio Bolzoni, mi dice: Letizia, complimenti. Dico: di che? Mi sei fatto lo scoop della tua vita. Dice: da tra i tuoi negativi c'è la foto di Andreotti. Ora, disse, vabbè, i miei negativi, mi restituiscono i miei negativi, ma non quello. Però mi fanno fotografare una fotografia che loro hanno fatto di questa brutta foto, e io posso utilizzare questa, ho rifotografato una fotografia stampata dalla polizia malissimo, e questa foto poi l'ho utilizzata per Panorama, così. E così seppi che di questa fotografia scattata nel 78, c'era, sì, luglio 78, era ancora vivo Mattarella, e in questa foto si intravedono, perché è bruttissima, si vede Mattarella, Salvo Lima, Ruffini, l'onorevole Ruffini, Nino Salvo e Andreotti. Va bene, quindi questa è la testimonianza fotografica, la prova effettiva, insomma, che cosa dobbiamo fare per convincere? Comunque, naturalmente, cioè, stiamo combattendo anche contro la nuova legge Bavaglio, che effettivamente chiude le speranze che si stavano aprendo per determinati processi, in particolare per processi di mafia, per le contaminazioni, chiamiamole così, tra mafia e Stato, tra mafia e politica. È evidente, ieri l'ha spiegato, no, anzi no, quando è stato al circolarci con il magistrato Ingroia, ha spiegato molto bene in che cosa consiste questa legge Bavaglio, dove blocca in particolare il discorso della spesa. Praticamente chi fa queste indagini utilizza delle strutture che non sono di proprietà dello Stato, per esempio. Quindi questa è una cosa, in tutti gli altri stati europei la polizia, per esempio, ha le attrezzature per poter fare le intercettazioni. In Italia questo non c'è. L'Italia deve noleggiarle a prezzi elevatissimi da delle società appunto che hanno queste attrezzature particolari, quindi società magari che fanno appunto indagini private, quindi società eccetera eccetera, quindi delle microspie per le intercettazioni ambientali eccetera eccetera. Quindi la polizia deve pagare il noleggio di queste attrezzature, e la cosa curiosa che diceva ieri Antonio Ingroia era proprio che molte di queste attrezzature sono appunto gestite da delle agenzie che agiscono in un certo stato di oligopolio, in poche parole, e una di queste agenzie è del cavaliere presidente, comunque affini, cose del genere. Adesso, assurdo, cose assurde. Addirittura per le intercettazioni telefoniche lo Stato italiano paga delle fatture allucinanti alle imprese appunto di Telecom, tutte queste qua, Wind, ai gestori telefonici. Quindi è lo Stato che paga ai gestori telefonici per intercettare appunto queste cose ambientali. Una cosa assurda, perché potrebbe essere lo stesso Stato a fare una legge per vietarlo. Che cazzo! Comunque, cose veramente dell'altro mondo, c'è da stare a bocca aperta. Sarà interessante anche sentire la settimana prossima questo breve estratto su appunto Antonio Ingroia, che vi ricordo farà parte di una collana realizzata dal Circolo Arcinzocchè, quindi una specie di ebook dove potete appunto dove sarà possibile ascoltare tutte queste informazioni importantissime che molto spesso vengono così, come aria nel deserto, nessuno le ascolta, nessuno le vuole ascoltare, nessuno forse si è mai posto il problema che basta veramente poco. Grazie anche a Letizia Battaglia, perché vedete, basta una foto e tutto è sotto gli occhi di tutti. Continuiamo con la nostra fantastica playlist. Adesso abbiamo Honey Birds and the Birds, musica. I got my PJs on and I pick up my charango, 'cause I don't wanna think about you. You're a mean old man, and yes, I'll keep playing charango so I don't think about you. I'm not thinking about you. I never do, I never do. I'm not thinking about you. Va bene, va bene. Di nuovo in diretta. Ringraziamo il nostro amico Matteo che sta spalmando sulla chat una serie di bellissimi video di Letizia Battaglia. Grandi, grandissimi, bravi, bravi, bravi. Ma poi, cioè, sentitela parlare, è stato veramente emozionante. Complimenti, complimenti. La prossima volta che fa qualche intervista lo diciamo a tutti, perché tutti devono ascoltarla. Perché veramente quando si sentono le persone sagge che hanno vissuto. E poi le diceva che era scappata da Palermo, ma non ce l'ha fatta, è dovuta tornare, perché se c'è qualcosa da fare bisogna farla adesso. Torniamo a parlare di Palermo, però nelle cose brutte, per la vicenda del Micalza di cui vi parlavamo prima. Leggiamo una dichiarazione che prendiamo da www.balarm.it, di proprio di Lorenzo Quattrocchi, il gestore del Micalza, che spiega in una lettera diffusa a tutti i giornali e agli operatori culturali. Occorre premere per mettere che in Sicilia, a causa di un mancato recepimento di una legge nazionale, di fatto vige in materia di pubblica sicurezza il testo unico del 1931. A quei tempi anche una semplice mostra fotografica era passibile di denuncia penale e non autorizzata dalla questura. Bene, in Sicilia anche oggi ottenere la licenza di pubblico spettacolo è praticamente impossibile, perché vige una procedura volutamente blindata. Io, come molti altri gestori di locali che propongono musica, sono stato denunciato penalmente, non per spaccio di droga o per vendita di cibo alterato, ma per spettacolo abusivo. Occorre, ovvero quattro musicisti che stavano rispettabilmente seguendo i loro brani. Ora la vicenda, come molti di voi già sanno, è ben più grave. E va bene, quindi ci è parso corretto leggerlo, questa lettera diffusa a tutti i mezzi di informazione. In particolare noi ci siamo sentiti in causa perché quando si parla di musica e cultura, naturalmente Radio Ballarò fa sempre la sua piccola parte. Attenzione, attenzione, fare spettacoli a Palermo è reato, penalmente perseguibile. Continuiamo con la musica che ci fa dimenticare tutte le cose brutte. Adesso da Palermo i nostri amici Duin Musica. Sì, Dopo questa bellissima ninna nanna, quasi ride, oh, perché abbiamo tutte queste notizie che fanno incazzare, che dobbiamo fare? Ridiamo, ridiamo. Ah, infatti, per ridere, vi volevo leggere una piccola nota, un post appunto sul blog, si chiama mobilitapalermo.org, il sito, un sito interessantissimo che è un occhio su tutte le iniziative della città di Palermo. Stanno seguendo i lavori per esempio per il raddoppio dell'allaccio ferroviario, come si chiama, del doppio binario che stanno montando tutta la linea palermitana. Stanno seguendo un sacco di iniziative in giro per Palermo, soprattutto quando si spendono i soldi pubblici, loro sono lì a controllare, appunto stanno facendo un lavoro ottimissimo. Sono in particolare il nostro amico Anthony, un bacione da Radio Ballarò, viva Mobilità Palermo. Comunque leggiamo questa che è una piccola riflessione su un fan appunto di Mobilità Palermo, per un giornalista non residente in Sicilia, che è stato in Sicilia per quando è venuto appunto il presidente Schifani. Dice che girando per Palermo mi sono accorto che avete una bellissima città, grazie, ringraziamo, grazie. Forse una delle più belle al mondo, ma, ecco, comincia, mi accorgo che si notano delle assurdità come dei propri crimini culturali, bellissimo, bellissimo, non solo contro i palermitani e i turisti che vengono a visitare il capoluogo siciliano, ma per tutti gli italiani, perché io sono uno di quelli che considera Palermo una delle capitali del nostro patrimonio artistico e culturale d'Italia. Quindi questo è un estratto, vi invitiamo appunto, ora vi mandiamo al volo il link, lo trovate su mobilitapalermo.org. Questo è un altro punto di vista esterno, che è comunque uguale al nostro, ed è bruttissimo il punto di vista in questione. Ascoltiamoci un po' di musica, dopo la ninna nanna dei bravissimi Duin, ascoltiamo adesso i Pinguini Pazzi, oppure Mad Penguins. Welcome to Radio Ballarò. When will I see the Va bene. www.radioballarò.com. Questa è musica libera da SIAE, questa è Radio Ballarò. Trasmettiamo direttamente dal centro, quello che una volta era un centro storico, oggi è un centro raccolta immondizia abusiva, il centro storico di Palermo. Yeah! Ma lo sapete che ad agosto Bello Lampo la chiudono perché non c'entra più niente? Avete sentito? Ora viene Bertolaso con gli elicotteri e trasferisce la città su Catania. Quando queste cose strane. Aiuto! Meglio morire o vivere male? Non si sa. Risponderemo a questa domanda più tardi. Adesso continuiamo subito un po' di musica. Già abbiamo ancora mezz'oretta per stare insieme. Signore e signori, Egon. Allora, oggi c'è stato un evento importantissimo, speriamo che ce ne siano tanti altri del genere. Parliamo di una passeggiata a piedi e o in bici alla natura lenta, organizzato da www.perpalermo.it, appunto organizza queste iniziative. Era oggi dalle 9:30 alle 12:30, la partenza era dalla Palazzina Cinese, il tragitto che sarebbe appunto sarebbe districato lungo il percorso del Parco della Favorita. Abbiamo visto che ci sono state un bel po' di adesioni anche qui su Facebook. Comunque, queste iniziative, portate i vostri figli, i vostri bambini in bicicletta a piedi. Simone, tu dove lo porti, piccolo? Lo porterai in bici? Ecco, bravo. Abbiamo ascoltato i Random Rots. mi sono perso. Quindi adesso ci ascolteremo il maniscalco mal destro e subito dopo ci spariamo un bel po' di metal, perché dobbiamo ricordare la serata del 5 giugno. Vi faremo ascoltare i Third Eye e gli Anthem 37 che si esibiranno in via Miraglio Cravina all'Arci Barcolla. Adesso il maniscalco mal destro, attenti dove mettete le mani. Ballarò. Thank you. peggio di fitti e lascivi ricordi d'amor. Andavi così bene, riposa di me, non posso di parlare per rendere di me. Andavi come ore dolente traforo, passaggio carissimo, ostaggio bestiale di te. Drenaggio di fritti e lascivi ricordi d'amor. Ma qua giù è tutta panna e polvere, tutta panna e polvere vertigine. Ma qua giù è tutta panna e polvere. E va bene, il maniscalco maldestro, e come ci diceva Natra, come si chiama, Natra Radio Roma, de Roma, oh. Ci diceva che il prossimo non sarà con licenza Creative Commons, e vorrà dire che noi non lo trasmetteremo più. Avremo un altro maniscalco con musica libera, eccetera, eccetera. Allora, siamo arrivati al momento metal, vi volevo ricordare, chi sono, io mi sono perso, sabato 12 giugno a Litania, la Miera. Vohin Motorhead, cover band dei Motorhead. Invece la prossima settimana, il 5 giugno, in via Gravina, Arci Barcollo, numero 56, ci saranno i Third Eye, Yamten 37 e Der Geist. Praticamente gli Yamten 37 li trovate anche nel mercatino della musica libera, con il loro primo lavoro in studio autoprodotto rigorosamente. Se guardate sopra la mia testolina pelata, nel banner iniziale trovate CD artisti, tra questi trovate appunto anche quello degli Yamten 37. Se lo volete chiedetecelo, se siete a Palermo ve lo diamo subito, se siete fuori ve lo spediamo. Va bene? Va bene. Ci ascoltiamo adesso gli unici, i fantastici, io li adoro, i Third Eye. Yeah. Try to make you see the world sometimes. Mamma mia, ragazzi, questa è musica che fanno qui in città, non è che è esportata dall'America, Non è USA, it's Sicily way, everybody, grandissimi, c'è un'altra radio di Roma che ce li sta rubando, ci stanno rubando i Third Eye. Ma a parte i Third Eye ci sono un sacco di gruppi siciliani, li ricordiamo tutti, a parte anche gli Anthem, i Psycho Ocean. Ieri abbiamo ascoltato, altre sera abbiamo ascoltato gli Indicative, una cosa allucinante, dalle ceneri, dai filtri, Sunday Circus, il batterista, il chitarrista sono fenomenali. Il metallo a Palermo, cioè, brucia, è ancora caldo, il ferro, battete il martello finché il chiodo è caldo, va bene. Comunque, siccome dalla regia mi fanno, la regia è qui. Comunque mi sto assediando, avanti, ve lo dico. non c'è più la passione di una volta. Prima Simone mi diceva le parolacce. Me ne dice una parolaccia. Non mi prenderà parolacce. Grandissimi Third Eye, grandissimi 5 giugno. Arci Barcollo, ci sarà un modo, un motivo perché si chiama Arci Barcollo, oppure no? Sì? Non lo so. Via Gravina 56, e adesso ci ascoltiamo l'altro gruppo che sarà, a parte i Dirgeist, che purtroppo non abbiamo musica, speriamo ce le inviano il prima possibile, gli Anthem 37, adesso musica. Short, got lost in my mind. sisi di washindaji upendo wake Mungu unatutia nguvu tu washindaji tunaufuata mfalme wetu Yesu tu Va bene. Vedete, oggi abbiamo raggiunto un grandissimo risultato. Siamo riusciti a far conoscere un gruppo palermitano a una radio di Roma. Sei di Roma? Per noi questo è stato bellissimo. Speriamo di diffondere questo circuito perfetto. Ci ha mandato pure il sito Blogspot. Grazie tantissimo. Il nostro c'è scritto sopra, l'intento è quello di creare un circuito indipendente. Volevo ricordare anche di Open Radio, questa, cercatela su internet, questa libera radio che scova musica su Giamendo, Open Radio di Milano. Quindi ci sono tante realtà che sono sul web prima di noi, non stiamo inventando noi questo sistema, stiamo cercando di ingrandirlo sempre più, da Milano a Roma, a Catania, a Messina, fino in giù al Polo Nord. Speriamo di riuscirci. Vi ricordiamo che non trasmettiamo musica protetta da SIAE, trasmettiamo solo musica libera da qualsiasi licenza, appunto SIAE, ma trasmettiamo musica con licenze Creative Commons. Con le Creative Commons potete rilasciare gratuitamente, liberamente su internet, dalla canzone al libro, eccetera eccetera. Andatevi a studiare le Creative Commons e nel frattempo che pensate di non iscrivervi alla SIAE, mandateci la musica a radioballarò@hotmail.it. siamo in chiusura, salutiamo la grandissima Letizia Battaglia, la ringraziamo per la bellissima intervista al Circolo Arci Zocchè, ringraziamo Titti Rosi del Circolo Arci Zocchè, ringraziamo tutti quanti, ci vediamo la prossima settimana, vi lasciamo con la fantastica, la sola musica di Angus, con la regia di Simone Papà Barbalunga, al microfono Carlo Nix. Buonanotte, ciao! We'll be right back. girl. Ballarà. 220 euro la prima iscrizione e altri 91,50 ogni anno. Circa il 60% degli oltre 44.000 autori musicali iscritti è in perdita. E i sistemi di monitoraggio usati fanno davvero gli interessi anche degli ultimi arrivati?